Allora, buonasera a tutti e tutte. Siamo qui in questa formazione un po' particolare, con tanto di proiezione e persone collegate da Roma e da Milano, perché purtroppo non chiamatela Covid, ma c'è un'influenza che gira. Chissà che cos'è, chissà cosa sarà mai, però così è. Sono stati fermati e fermati alcuni nostri invitati, tra cui Matteo, che parlerà per Milano in Movimento, e anche Lorenza Ghidini, che è una delle redattrici, autrici, anzi, di Radio Popolare, che purtroppo è stata fermata anche lei a letto con la febbre, per cui, vabbè, insomma, appunto, chiamiamolo male dei nostri tempi, via, tra le tante problematiche che ci sono, come se non bastasse. Rimbomba un po'. Allora, purtroppo dobbiamo tenerci il microfono perché sennò non ci sentono là. Cercherò di parlare più piano, non lo so, in qualche maniera ci inventeremo. Allora, questo incontro, che si chiama Il buio oltre le urne, nasce dalla necessità di capire e comprendere cosa è successo un po' meglio, anzi, capire e comprendere un po' meglio cosa è successo appunto dopo le elezioni del 25 settembre. Diciamo, i più naif, leggi Partito Democratico, forse perdonatemi il francesismo, più paraculi, non se l'aspettavano, sono rimasti sorpresi da uno spostamento a destra così deciso della popolazione italiana col voto. Nella realtà si intuiva un po' che non c'era niente che fosse possibile, immaginabile votare se non l'unico soggetto politico che ci metteva la faccia, che proponeva delle cose orrende, ma le proponeva e via di questo passo. Ci siamo resi conto quindi che sono successe tante piccole cose in questi anni. La Lega di Salvini è andata appassendo, forse per i passi falsi del proprio leader, mentre il partito della Meloni cresceva. Le scelte comunicative fatte dalla Meloni e dal suo partito hanno evidentemente fruttato nel portargli voti, con delle scelte credibili appunto di presenza. Ci siamo resi conto che ci sono delle evidenti lacune di cultura politica e di conoscenza diffuse nella popolazione italiana riguardo al che cosa porta ciò che viene detto, o anche soltanto al capire e comprendere cosa vuol dire certe cose quando si partecipa prima alle elezioni e poi a un governo, e cerco di essere più chiaro. Nessun partito ha parlato, non so, di affrontare la recessione economica, nessun partito ha parlato di come affrontare la crisi climatica, nessun partito ha parlato di come affrontare l'aumento del bilancio, nessuno diceva nulla. Si parlava di tante cose, di tante uscite fatte a mezzo stampa di come gestire le alleanze, ma in realtà poi di governo c'era veramente poco e nulla. La nostra necessità come collettivo è quella di agire nel nostro territorio e nella praticità delle cose che ci accadono intorno. Vorremmo capire qui, adesso, parlandone tra di noi, un po' come la pensa chi è qui con noi. Adesso magari presenterò tutti gli invitati e le invitate, perché bisogna parlare di qualcosa, bisogna affrontare la situazione che c'è. Dal punto di vista ovviamente dell'antifascismo militante, perché la futura prima ministra, forse vorrà farsi chiamare così, così, in un afflato di femminismo per dipingersi un pochino di rosa. Ha fatto parte di formazioni di estrema destra, extraparlamentari, neofasciste, penso che lo dichiari anche senza farsene troppo problema, purtroppo, nemmeno quello. Ci sono problemi che riguardano cosa farà questo governo appunto di fronte alle grandi sfide che ci porta il momento attuale, tra Covid al ritorno, la guerra in Ucraina, la crisi economica, la crisi ecologica. E per finire bisognerebbe anche un po' capire cosa succede qua intorno nel nostro territorio. Io finisco di parlare a braccio e passo a prendere gli appunti, perché così si riesco a fare un intervento che abbia una parvenza di senso, anche perché soprattutto andiamo a dare la parola a qualcuno che non sono io, a qualcuna che non sono io, e quindi dirà cose molto più intelligenti delle mie. Abbiamo qui con noi i compagni e le compagne di Rosso Si Spera, e beh, poi non so chi di voi parlerà, me lo direte voi. Associazione storica in questo quartiere ormai dagli anni 70, si può dire? No? Non come Rosso Si Spera, sto facendo riferimento a esperienze politiche passate. Diciamo che i compagni e le compagne qui presenti sono presenti da decenni sul territorio. Diciamo così, questo si può dire senza problemi. Abbiamo collegato appunto Matteo di Milano in Movimento, portale web dalla parte giusta della barricata, qualora ce ne fosse una, poi la troveremo insieme. Collegati da Roma, dei compagni Giuseppe, e mi sfugge il nome della compagna, purtroppo, Alessandra, direi, giustamente, mi fanno notare. Vedo che il pubblico è attento, fantastico, è sempre bello quando si è sostenuti dal proprio collettivo. Alessandra, ci racconteranno invece magari qualcosa dal punto di vista romano, sulle tante cose che dobbiamo parlare stasera. Va bene, io a questo punto avrei la prima domanda, devo andarla a cercare ovviamente negli appunti del telefono, essendo io un ragazzo moderno ma poco organizzato. Io la vorrei rivolgere ai nostri compagni e ai nostri compagni di Rosso Si Spera. E suona più o meno così. Anni fa, penso due, alle elezioni, alla seconda elezione di Beppe Sala, forse addirittura l'anno scorso, ma ormai con lo scorrere del tempo se ne è perso il controllo, in tutta la città, in tutte le zone, anzi in tutte le municipalità, vinceva la sinistra, vinceva Sala con una maggioranza schiacciante, PD a primo partito. Con le elezioni governative questa cosa è stata completamente ribaltata. In questa zona ha vinto Fratelli d'Italia, ha vinto la Meloni. Allora, questa cosa ci fa un attimo impensierire, vorremmo chiederci perché, come è stato possibile che in un solo anno tutte quelle persone che hanno votato centrosinistra, che hanno votato per una città, diciamo, progressista, per i diritti civili, si siano oggi invece rivolti a una rappresentante della destra estrema. Vorremmo capire chi sono le persone nel nostro quartiere che hanno votato la Meloni e se le incontriamo nel nostro fare quotidiano, ma non intendo al supermercato, intendo nelle associazioni, nella vita civile, nelle parrocchie piuttosto che nelle associazioni di zona. E qual è la domanda che a cui le persone di questa zona hanno trovato una risposta nel governo Meloni? Cioè, che cosa li ha portati a votare questa realtà? Io lo chiedo appunto ai nostri compagni e compagne che sono qui da più tempo, che magari ci possono spiegare. Io faccio delle proposte di domanda, poi si può tranquillamente ignorare la mia domanda e parlare di altro, sempre intorno magari appunto a queste elezioni, perché mi rendo conto che magari facendo una sola domanda è un po' stringente la cosa, poi più avanti libereremo il microfono all'intervento di chiunque. Prego, ditemi voi a chi dirigo il microfono. Vabbè, ciao a tutti. Sono un po' preso in contropiede perché una riflessione così accurata e la capacità di dare una risposta di questo tipo avrebbe comportato degli incontri precisi dal nostro interno e un approfondimento. È un approfondimento che per ora non c'è stata e per noi non è stata una sorpresa quanto stava avvenendo nel paese, addirittura nella preparazione della ripresa del nostro lavoro è stato deciso di rinviare la riunione a quando tutti avrebbero visto i risultati, però dobbiamo dire, possiamo dire che, no, che nell'impostazione del primo incontro che abbiamo avuto, la discussione al nostro interno era se conveniva dire prima quanto noi leggevamo nelle dinamiche e quindi le condizioni, insomma, sul piano sovrastrutturale, come stavano marciando. E da questo punto di vista qui c'è stata una lunga discussione che adesso non riporto, che però vorrebbe dire scomodare Gramsci in rapporto all'individuazione di quanto stava avvenendo, discutendo sulla questione del blocco sociale e del blocco storico, che per noi comportava appunto, e qui in modo molto veloce vado a dire, non ci conviene fare una discussione di questo tipo, perché vorrebbe dire che una parte di militanti sul territorio che ci sta spendendo per tentativi di sinistra sul piano istituzionale, vorrebbe dire scorarli in rapporto al fatto di prevedere che non ci sarebbe stata nessuna rappresentanza e quant'altro. E abbiamo appunto deciso che la lettura andava fatta in termini generali, affrontando questa questione delle contraddizioni aperte, non solo sul territorio, nel senso che la nostra dinamica ci porta a ragionare in modo più complessivo, perché cioè schiacciarci sul perché la zona 5 non ha votato, cioè, a differenza di tutte le altre zone, è stata. Io vi assicuro che non ho ancora letto i dati precisi, no? Da questo punto di vista. Mi sembra che la città di Milano sia andata in controtendenza a quanto stava avvenendo e avvenuto a livello nazionale, e da questo punto di vista anche le zone abbiano risposto. C'è stato anche in questa città e in questa zona una, diciamo, affluenza molto minore in rapporto alle ultime elezioni precedenti. Quindi potremmo buttarla lì, da questo punto di vista, che nel corpo elettorale proletario si individuava e non sapeva individuare chi, si individuava una partita persa e una non proposta di rappresentatività. L'abbiamo visto tutti, il quadro della nazionale, tutti abbiamo visto anche a sinistra dei 5 Stelle, tra virgolette, permettetemi, 6-7 liste che si rifacevano comunque a dinamiche o ricordi di classe. Detto questo, noi intendiamo invece, dalla riflessione che abbiamo fatto inizialmente, e abbiamo aderito a questa iniziativa che voi avete fatto, che avete lanciato nel momento in cui ci avete invitato con quello scritto, abbiamo aderito con, diciamo, a parte il fatto che noi abbiamo un rapporto ormai saldo con ZAM e con tutti, diciamo, i comitati che agiscono nel quartiere, partendo addirittura dalla Rete 5 nel passato, quando si è trattato di costruire le condizioni affinché l'insediamento di forze neonaziste nel quartiere fossero contrastate, ed è stata una vittoria portata fino in non ancora forse definitiva, perché esiste ancora da questo punto di vista un sito dove loro potrebbero riunirsi, ma da questo punto di vista del loro insediamento nelle condizioni di disagio non ha mai avuto nessuna possibilità, perché si è costruito un fronte che ha saputo da questo punto di vista qui contrastarli sia sul piano culturale ma anche sul piano conseguente a quello che, insomma, chi semina vento raccoglie tempesta. Da questo punto di vista per noi la tempesta è non è il vento e qualche albero abbattuto, sono anche altre cose, e su questo credo che non ci sia da dilungarsi. Sulle questioni sociali abbiamo aperto interventi, perché il nostro quartiere nello specifico è un quartiere multiculturale, abitato da tantissime etnie, e continuiamo a tenere aperte le porte per le elezioni di italiano e ai migranti, a costruire rapporti a risaldare i rapporti con le associazioni di migranti, costruendo i rapporti di solidarietà andando anche oltre. E sul piano dell'analisi di classe sappiamo da questo punto di vista che dobbiamo stare in campo in rapporto ai bisogni. Sulla casa, come stiamo facendo, abbiamo aperto sportelli sulla casa, ma soprattutto abbiamo fatto un lavoro che, secondo me, come Rosso si spera, ma di pari passo con ZAM, che prima ci ha supportato e poi ci ha anche superato, in rapporto alla questione della sanità e la distruzione della sanità da parte della regione Lombardia. Noi qui abbiamo due ospedali, abbiamo il San Paolo e il San Carlo, che erano in procinto di essere riorganizzati, anzi chiusi, per la costruzione di un altro ospedale su terreni paludosi, e che avrebbe chiuso 600 posti di letto. Da questo punto di vista, su questo abbiamo condotto una battaglia, stiamo ancora conducendo. Da questo punto di vista l'abbiamo fatta tornare indietro, e io credo ZAM ci ha superato, perché poi nell'integrazione e nella capacità di coniugazione ha saputo anche fare manifestazioni richiamandolo altre situazioni giovanili della città su questo piano. Noi lavoriamo con tutti, anche con Medicina Democratica, no, su questa questione, e andiamo avanti nel contrasto. Io mi fermo qui, perché credo che gli elementi immessi ce ne siano, non è ultimativo, perché se noi non pensiamo di avere la soluzione definitiva, ma credo che insieme e l'intelligenza collettiva sappia, no, coniugare possibilità ulteriori e andare avanti. Grazie mille. Funziona meglio questo microfono dell'altro, poi magari facciamo un cambio. Chiedo ad Alberto di tenere un attimo il microfono, non è vero, funziona malissimo. Facciamo cambio. Allora, nel suo intervento Alberto ha parlato della necessità che ha avuto questo territorio di organizzarsi per evitare che ci fossero riprese di movimenti o gruppi neonazisti, neofascisti in questa zona. Parlava di un esperimento, di una bellissima avventura che c'è stata anni fa, nata proprio da un'occasione di antifascismo, cioè il 25 aprile di quale anno, Macio? Perché sicuramente te lo ricordi. Insomma, quando Partigiani Ogni Quartiere venne qui a organizzare la data del 25 aprile di tanti anni fa, creò la scusa perché tante associazioni di quartiere si trovassero e trovassero poi interessante rimanere unite nell'organizzare eventi, una volta all'anno, un evento che fosse la festa delle associazioni di zona e di quartiere. A partire da quell'esperienza, appunto, si è verificato un'unione delle varie correnti, dei vari gruppi che da anni partecipavano e creavano vita sociale in questa zona, dall'esigenza proprio da un evento antifascista e dall'esigenza di evitare che purtroppo quella che ancora è oggi la sede di Forza Nuova in via Palmieri 1 potesse svilupparsi oltre le mura di quello stabile. A questo punto, per cui, partire da questa esigenza di antifascismo, vorrei chiedere al compagno che sono in collegamento da Roma, che fanno parte di un ambito nazionale, anzi fanno parte di Antifa Roma Est, che è un gruppo che opera a Roma, e ci scriveranno loro come, e che insieme a noi fa parte di un coordinamento nazionale che si chiama Aurora, tra le varie tante cose che fa, si pone come punto principale quello di creare antifascismo sotto tanti aspetti, che sono l'antifascismo militante, cioè il combattimento diretto contro i fascisti e le fasciste che sono organizzati purtroppo come noi o circa come noi nelle varie città, ha anche la volontà di lottare contro il fascismo delle istituzioni, cioè tutte quelle istituzioni che per loro natura sono nate, create e vivono per ostacolare il libero pensiero, l'azione libera, l'autogestione, la partecipazione delle persone, e anche la volontà di analizzare quello che può essere l'antifascismo come sociale, cioè tutte quelle possibilità di andare a scardinare i rapporti nella società che creano forme di fascismo, ovvero come il capitale influenza la nostra vita e ci condanna poi a vivere in rapporti di fascismo tra uomo donna, tra datore di lavoro e lavoratore e lavoratrice, eccetera eccetera eccetera. Devo riprendere gli appunti perché ricordo poco, mi perdonerete, è la malta che occlude il cervello. A questo punto noi chiediamo, ora che c'è una fascista al governo, ora che c'è un'emanazione diretta di gruppi di estrema destra al governo, noi cosa ci aspettiamo e cosa vogliamo o possiamo fare da questo soggetto? Quanto e come sarà più influente il fascismo storico, diciamo quello delle camicie nere, nel governo? Quanto ci saranno altre forme di fascismo che inizieranno a esistere perché c'è Giorgia Meloni come presidenta del Consiglio dei Ministri. Prego. Abbassa il mio volume. Beh, buonasera a tutte e tutti. Domandona. Sentite? Sì. Va bene, noi stiamo avendo qualche piccola difficoltà tecnica con il computer, ma stiamo cercando di gestire le cose al meglio. Se ci sono problemi, insomma, ce lo fate sapere. Dunque, non so, senza neanche troppo ripetere alcune cose dette sulla fase attuale, sulla questione elettorale e su quello che in qualche modo credibilmente è avvenuto, nel senso che... se ci fossimo confrontati sulle ipotesi ad agosto di che cosa sarebbe dovuto succedere, probabilmente avremmo previsto più o meno in maniera lineare quanto successo, e, purtroppo. E, il ragionamento che qui, come dire, stiamo provando a fare un po' su Roma da un po' di tempo e che pensiamo debba essere a maggior ragione portato avanti in questo periodo, e che vorremmo anche provare a ragionare in senso più ampio con voi stasera, è su quello che appunto tocca fare in questa fase, dividendo i vari ambiti per come sono stati proposti appunto nella domanda, quindi un antifascismo un pochino più militante, antifascismo sociale e tutta la costruzione di un ragionamento, quindi chiamiamolo così antifascismo culturale, tutta la costruzione di un ragionamento antifascista che possa essere il più possibile diffuso, approfondito, attuale e consono rispetto alla fase che viviamo e alle fasi che andremo vivendo. Certamente partiamo per esempio dall'antifascismo sociale, che è un piano che stiamo agendo molto negli ultimi anni, partendo dalla pandemia appunto con il gruppo di appoggio mutuo, quindi con distribuzione di pacchi. Ora abbiamo in campo il discorso dell'ambulatorio popolare. Questo riteniamo sia un elemento fondamentale per riuscire a intercettare tutta una serie di persone che purtroppo, dobbiamo dirci, sono disaffezionate rispetto, ci sembrano disaffezionate rispetto a quello che può essere un discorso antifascista classico. Tant'è che su questo quadro vediamo, ci sembra, come dire, complesso agire un discorso immediatamente antifascista dal punto di vista strettamente come dire, lessicale. È il ragionamento in questo senso, la costruzione di una comunità, di una serie di pratiche che siano in sé antifasciste, in cui ci si possa riconoscere, con delle questioni chiare, con dei rapporti chiari di relazione fra le persone, che costruiscano appunto immediatamente una comunità che sia antifascista, pur non dovendosi dire tale in qualche modo. E questo è il piano un po' dell'antifascismo sociale, cerco di farla breve, poi se ci sono cose da approfondire le approfondiamo. Ci siamo bloccati tutti. Fategli un gesto. Proprio prima. Fermo il tempo? No. Fagli un gesto per far capire che ci siamo. No, ci siamo, sentiamo tutto. Prego, prego. Da dove... Perché qua veniamo tutto fermo, ci sentite? No, abbiamo sentito tutto quanto, assolutamente. Abbiamo sentito tutto quello che avete detto. Ci siamo. Dove eravamo? Mi pare che stessi parlando di approfondire... Si andava avanti per un po'... Si stava parlando di quali sono le possibilità, le azioni da fare in questo momento per passare all'attività diretta. Nel frattempo sto frantumando i timpani di Martina. E, oddio, adesso io lo stavo seguendo, però sono un attimo distratto. No, allora, io avevo iniziato il discorso della pratica dell'antifascismo sociale per come lo percepiamo noi sul nostro territorio, lo stiamo portando avanti. Non so se qualcosa esatto. Di quello era... No, ce l'avamo. Ah, ok, perfetto. Quindi, come dire, su questo quadro un pochino il discorso ci sembra questo. Dall'altra parte però in questo momento è chiaro che la questione antifascista, proprio dal punto di vista della narrazione antifascista, può tornare ad essere una roba, come dire, che può in qualche modo essere diffusa. Per esempio noi vediamo che un sacco di gente dopo la vittoria della Meloni ci ha ricontattato per chiedere come partecipare a una serie di iniziative, a fare una serie di cose. Quindi nell'immaginario comune si può ricostruire una narrazione strettamente antifascista, e credo che uno dei vari compiti che dobbiamo assumerci collettivamente sia provare in qualche modo a cavalcare questa narrazione, riuscendo però a definire appunto quello che per noi è l'antifascismo in maniera chiara, in maniera netta, anche con le fratture dovute, anche certamente con le fratture dovute rispetto a tutto un elemento, come dire, di sinistra istituzionale, che comunque ha portato avanti una serie di discorsi e di questioni economiche rispetto alle quali, per esempio, la Meloni si pone in assoluta continuità. Cioè sta già, per esempio, lei sta già molto ridimensionando il discorso di fattura europea, tutta una serie di ragionamenti in quella direzione, quindi e quindi si porrà in stretta continuità su quella roba, anzi probabilmente, per esempio, su questioni del lavoro ci andrà molto più dura e potrà anche andarci molto più dura. E quindi da una parte riuscire sì a sottolineare questa continuità nelle politiche economiche, ma contemporaneamente essere in grado di agire il piano dell'antifascismo per come probabilmente ritornerà fuori, riuscendo a dargli una connotazione strettamente conflittuale, strettamente anticapitalista, strettamente materialista in una direzione appunto di frattura con le politiche del capitale, è chiaramente antisessista, antirazzista. Detto questo, per esempio, da questo punto di vista, invece, un discorso propriamente più antifascista, ci sembra che si possa fare di più col corpo studentesco. Questo è un dato interessante, perché, perlomeno per come l'abbiamo vissuto a Roma l'anno scorso, perché ci sembra che gli studenti siano da una parte un pochino più percettivi dal punto di vista proprio dell'immaginario, sul cogliere, sul voler cogliere una serie di approcci, di ragionamenti, anche di modi, di pratica, appunto, di immaginario stesso. Dall'altra parte è molto probabile che accada, in alcuni momenti qua a Roma è già accaduto, che per esempio sulle questioni, penso alle questioni di genere, è successo qua a Roma, che gruppi neofascisti andassero davanti alle scuole a fare una serie di provocazioni, e che quindi lì la questione del rapportarsi con questi soggetti si manifestasse in maniera diretta, e quindi la sensibilità degli studenti e delle studentesse fosse immediatamente coinvolta all'interno di questo ragionamento. Detto questo, è chiaro che bisogna provare anche a metterci a un tavolo, a produrre un quadro di analisi aggiornato rispetto a quello che vuol dire il governo della Meloni, come si adatterà o non si adatterà a una certa linea economica, allo stare in Europa in un certo modo, quanto questa cosa corrisponderà poi a per esempio gruppi di fascismo militante, come dire, più propriamente detto, quanto questa cosa sarà in corrispondenza con questi gruppi, e quanto questi gruppi per esempio si sentiranno in grado di avere più carta bianca nei territori. E in questa direzione va fatta una lettura di fase che chiaramente va oltre le elezioni, quindi vedremo in qualche modo come il capitale riutilizzerà i nuovi fascismi anche in uno Stato che è tra gli Stati fondatori dell'Europa, per portare avanti una serie di politiche che fino ad ora, insomma, hanno gravato sulle nostre vite. Spero di aver quantomeno parzialmente risposto, non so se Alessandra vuole aggiungere qualcosa, ho buttato un po' di cose di ragionamento che ci siamo fatti, che spero possano essere utili ad andare avanti nella discussione. E in realtà, a partire da una cosa che tu dicevi, io faccio una scelta di politica, lascio Matteo per ultimo, soltanto perché ci conosciamo di più, quindi magari si offende di meno, e adesso mi rivolgo la prossima domanda ai compagni di Marxpedia, e parto in realtà da una considerazione che faceva il compagno da Roma, quando parlava della possibilità di lavorare di più e meglio nell'ambito studentesco, perché gli studenti in qualche maniera recepiscono, se ho capito bene, meglio il tema dell'antifascismo, sono un po' più reattivi e, diciamo, forse più comprendono di più, hanno più chiara una visione del mondo nella quale il fascismo è una cosa da combattere, forse perché la studiano, forse perché sono giovani, forse perché ci credono, e dall'altra parte purtroppo rischiano anche, proprio perché sono un po' più giovani, forse di cadere anche nella fascinazione dell'estrema destra. Ecco, il fatto che ci sia ancora un soggetto che in qualche maniera, un soggetto sociale, se vogliamo parlarne così, che ha ancora dei punti di riferimento forti, mi porta a fare la domanda che volevamo fare forse come collettività e compagni di Marxpedia. Ci siamo accorti che in queste elezioni, forse in più che in altre, o forse ce ne siamo accorti solo noi in questo momento, più di prima c'è quella che i 99 passi chiamavano la confusione semantica, per cui si mischiano i discorsi, ci si perde nei punti di vista, si dice il contrario di quello che si intendeva, ovvero questa volta più che altre volte chi vive nell'illegalità vota la Meloni perché vuole avere l'ordine, ma vive nell'illegalità, e quindi teoricamente è il soggetto forte che rende lo Stato forte, che rende la polizia pervasiva, che rende il controllo efficace, rema contro se stesso. Abbiamo proletari, proletarie che votano il partito che fa l'interesse di Confindustria per l'ennesima volta. Questo forse è un po' meno, diciamo che è un po' meno nuovo in queste elezioni, però diciamo che in generale c'è questa scarsissima, come dicevo nell'introduzione, capacità e cultura e quindi capacità di comprensione della politica nell'arco istituzionale, ma anche nel risultato che poi alcune politiche porteranno nella vita delle persone. E vorremmo quindi capire come si può fare a creare questo. Partiti di sinistra, lasciamo perdere, partiti che in generale abbiano voglia e la capacità di dare questa cultura alle persone, non ce ne sono. Vorremmo cercare di capire come fare a intervenire oggi con le persone che incontriamo per fare in modo che i nostri portati vengano capiti, compresi e possibilmente digeriti, per fare in modo che le persone agiscano diversamente in futuro. Perché penso, magari sono un parere solo mio, che sia questa la necessità per fare in modo che in futuro le persone si comportino in un'altra maniera, aderiscano ad altri ideali, agiscano in una maniera differente e quindi esprimano tramite il voto poi qualcosa di differente. Qual è la, diciamo, se è possibile definirla, poi mi rendo conto che è una domanda un po' incredibile, dove si può iniziare a fare di nuovo un po' di cultura per le masse e per creare quella coscienza politica nelle persone, da dove ripartire per far ragionare chi abbiamo davanti sul cosa fare poi veramente nelle urne per rispettare i propri interessi. Insomma, domandone incredibile, ma vediamo se ci... Ho molta fiducia nei compagni Mercedes. Beh, buonasera a tutti. Questa è una domanda trappola, tra l'altro, perché io sono appena arrivato, quindi è palesemente un trappolone. Allora, è anche una domanda da $1 milione, detta così. Però mi sento di rispondere in questo modo. Poche ore dopo, diciamo, fondamentalmente il giorno dopo la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni, il quotidiano di Vox, la formazione di estrema destra spagnola, ha pubblicato un articolo nella quale diceva: tutti i nostri dittatori in Europa stanno dicendo che è l'avanzata del fascismo in Italia, ma non è vero, non è vero. In fondo questi 7 milioni e rotti di persone, che hanno 12-13 milioni di persone che hanno votato centrodestra, milioni di persone che hanno votato Fratelli d'Italia, non volevano altro che un posto di lavoro sicuro, dei quartieri sicuri, una vita dignitosa. Parole d'ordine che, come potete immaginare, potrebbe dire qualsiasi forza politica, no? Se ci pensate. E questo però ha un fondo di verità, che anche in ogni menzogna c'è un fondo di verità, e anche nelle menzogne dei fascisti spagnoli, in questo caso che commentano le elezioni italiane, c'è un fondo di verità. E il fondo di verità è che gran parte del voto che è andato al centrodestra e alla Fratelli d'Italia in primis è ovviamente un clamoroso rifiuto di tutte le politiche che sono state portate avanti dal resto dei partiti istituzionali. Questo è il primo punto di partenza. Viene sconfitta l'agenda Draghi, questa è la prima cosa, e nell'agenda Draghi era riconosciuto tutto l'arco parlamentare praticamente. Quindi di conseguenza questo è il punto di partenza per la quale tanta gente normale, tanti lavoratori... Sì? Inclino un po' di più? Ah, ok, ecco, vedi... Tanta gente normale, tanti lavoratori, tanta gente comune ha votato senza farsi il problema, senza pensare che andavano a votare un partito con il simbolo della fiaccola che arde sulla tomba di Mussolini. Hanno votato esattamente il rifiuto di quello che hanno visto finora. E hanno votato anche in base alla paura della crisi economica che arriverà, senza contare che sarà un'arma a doppio taglio per lo stesso governo della destra. Ora, prima di provare a rispondere alla domanda, voglio aggiungere solo una cosa. Che è questa. Molte analisi dei risultati elettorali sono partiti da un punto di partenza. Il punto di partenza è che il governo Meloni incontrerà una profonda crisi economica e verrà tirato da due direzioni contrapposte. La propria base bigotta, reazionaria, conservatrice, chiederà provocazioni sui temi dei diritti civili, mano pesante dalle questure, la restrizione della legge 994, proviamo a fare delle Marche, no? Un laboratorio nazionale, chiederà queste cose. E contemporaneamente però sul piano economico dovranno applicare l'agenda Bonomi in Italia, presidente di Confindustria, quella Draghi in Europa, dovranno fare un copia incolla, non si potrà fare altro. Considerando che ancora non hanno fatto la formazione di governo e entro la fine del mese di ottobre devono presentare a Bruxelles la proposta di piano economico per rimanere all'interno dello scudo antispread, e non si scosteranno di un millimetro da quello che aveva deciso Draghi. Ecco, questa è una contraddizione molto importante, l'hanno sottolineata tutte le analisi economiche anche a sinistra, però ci sentiamo di dire che è incompleta, forse non è nemmeno quella centrale. A nostro modo di vedere, quella centrale è che la Meloni, Forza Fratelli d'Italia ha vinto le elezioni ma non ha vinto nelle piazze. cioè in questo caso abbiamo il primo governo così a destra della storia della Repubblica che però non viene votato dopo una sconfitta storica dei movimenti in piazza, per strada. Questo ancora non l'abbiamo avuto, anzi la battaglia in realtà non si è nemmeno ancora combattuta. Le generazioni più combattive che sono in piazza, e qui provo a rispondere alla domanda, sono quelle che ancora non votano. Sono quelle che in questo momento hanno animato le mobilitazioni per il clima, quelle studentesche, parzialmente quelle di genere e per i diritti delle diversità sessuali. E questo è un aspetto, secondo me, forse questo è il vero aspetto centrale che dobbiamo tenere in considerazione e che ci dice che non abbiamo la sfera di cristallo, non mi sento di dire che avremo l'autunno più caldo degli ultimi anni, lo abbiamo pensato negli ultimi anni e non è avvenuto. C'era Monti e non è avvenuto. C'era e non è avvenuto, c'era Draghi e non è avvenuto, non mi sento di dirlo che adesso c'è il mostro finale, non mi sento di dire questo, però mi sento di dire che ci sono delle contraddizioni economiche, sociali e politiche molto forti e stanno tendendo la nostra classe di appartenenza, la classe chi lavora, la stanno tendendo in una maniera inimmaginabile. E in questo momento dal punto di vista della società non lo vediamo riflesso nelle urne perché è solo una fotografia statica di quello che sta avvenendo nella società, però effettivamente nella società in questo momento abbiamo l'inizio di una presa di coscienza che non si vedeva da molto tempo. La maggior parte del movimento studentesco, rispetto anche soltanto a 20 anni fa, sta cominciando ad assimilare, tu parlavi di infatuazione giovanile, dico sì è vero, però sta cominciando ad assimilare l'antifascismo a un'idea sempre meno confusa di anticapitalismo, per il banale motivo che viviamo in una società che effettivamente sta mostrando dei livelli di ingiustizia che insomma erano inediti anche per i nostri genitori, ma pure per me, che sono un 83, per intenderci. E parlare a questa generazione tutto sommato è facile, c'è già. Sono molti spazi, movimenti antagonisti che di fatto dirigono, organizzano questi studenti o questi movimenti. Non è questo il punto. C'è tutta un'altra fascia invece, che non è stata ancora chiamata alla lotta, alla mobilitazione, che ancora deve essere risvegliata e che riguarda il mondo del lavoro. E qui apro una parentesi di cui si parla poco, perché noi solitamente ci occupiamo del mondo del lavoro in settori estremamente combattivi, e la logistica e la mobilitazione dei rider, cose molto combattive ma limitate se pensiamo complessivamente a com'è il mondo del lavoro in Italia. Cioè in realtà i settori pesanti del lavoro dipendente non sono stati mobilitati nella loro totalità. Prendiamo una vertenza pilota, GKN, una vertenza modello, no? Per combattività, per radicamento sindacale, movimento operaio puro. Eppure più di 30-35 mila persone in piazza, combattive, prevalentemente giovani, di molti anche lavoratori però disorganizzati, non ha portato per ora. Perché? Perché le cose a modo loro devono maturare e poi perché ci sono anche delle forze inerziali. Per molti anni le direzioni sindacali, una su tutte anche quella della CGIL, si sono gestiti i governi tecnici nella speranza che gli offrissero un tavolo di sponda di trattativa. Andate nei luoghi di lavoro e probabilmente percepirete un grande rancore inespresso o che viene espresso politicamente male, perché nessuno li chiama a una mobilitazione con un piano, con una regia, con una strategia, con degli obiettivi che ti faccia arrivare da qui a lì e che ti dica ok, questa cosa non deve passare, perché non passi, si deve lottare da qui a lì. E invece il campo è ancora molto diviso tra questo pachiderma organizzativo fermo guidato da Landini e di sindacati, è un movimento del sindacalismo extraconfederale che non riesce a superare le sue divisioni, che quando prova a fare anche gli scioperi generali, e ne ha fatti negli ultimi anni, viva Dio, in cui si sono riusciti a integrare più sigle, comunque non riesce ancora a intaccare, diciamo, a smuovere almeno la periferia, diciamo, di questo pachiderma. Bisogna fare dei passi da questo punto di vista. E non voglio farla troppo lunga, mi sento di dire che questo, nell'apparente disagio di questa discussione, disagio per la vittoria della destra, intendo in questo senso, sia un elemento di ottimismo che ci dobbiamo tenere per la prossima fase. Un ottimismo politico che è dato dal fatto che, se ci pensate, chi governa questo paese ha giocato la carta dell'unità nazionale per molto tempo. Molti governi di unità nazionale. Pensate che negli ultimi 10-12 anni, dall'ultimo governo, quarto governo Berlusconi, con l'esclusione del governo Renzi, tutti i governi non sono durati più di 2 anni. Il primo governo Conte è durato 1 anno e 4 mesi. c'è una crisi, una fragilità delle istituzioni, mai vista prima. Manco il periodo di Tangentopoli è stato così. E contemporaneamente anche il personale politico sta scarseggiando e si sono giocati Monti, si sono giocati Draghi. Alla fine, con riluttanza, Mattarella consegnerà il paese alla Meloni, perché non c'è altro personale politico in questo momento che può farsene carico. E per ogni La Russa che la Meloni deve inserire al governo, dovrà inserire un Tajani, una figura istituzionale che garantisca a Bruxelles i fondi del PNRR, che sono poi quelli che contano fondamentalmente, la torta golosa su cui cercheranno di spartirsi le prebende. Ecco, tutto questo è un elemento di grande fragilità e l'isteria dell'estrema destra la vedremo proprio su questo. Allora io dico, cioè noi diciamo, come dire, la riflessione che facciamo per chiudere è questa: non ci sono scorciatoie per costruire l'opposizione sociale di classe in questo paese, non ci sono. Non ci sono. Sicuramente ci sono degli obiettivi che dovrebbero essere perseguiti e dovrebbero essere discussi anche senza diplomazia. Il primo è quello dell'unità dei movimenti sociali, della strategia comune, cioè non l'idea che ogni spazio, ogni sindacato confederale, extraconfederale, eccetera, ogni movimento comunque si faccia il proprio percorso e questo in qualche modo alla fine per somme aritmetiche confluiscano, ma che prima o poi bisogna metterle tutte attorno a un tavolo comune e costruire un'unica regia. E questo comunque non sarebbe sufficiente, ma va fatto per approfittare dei tempi, perché comunque maturano i tempi e matureranno i tempi. Noi oggi facciamo questa discussione adesso e magari tra un mese ci ritroviamo con una situazione sociale ben più calda. Già adesso abbiamo visto, no? In cantiere ci sono diverse mobilitazioni. E poi, per chiudere, anche le parole d'ordine. Probabilmente l'idea di costruire una lotta contro la destra appellandosi soltanto alla sacrosanta Costituzione ora non sarà più necessario, perché diventa inconciliabile col caro bollette, non so come spiegarlo. Nel senso che è stata una cosa molto importante, ma adesso la medaglietta di antifascismo se la punteranno al petto tutti quanti, perché sarà facile fare l'opposizione al governo Meloni da sinistra, per adesso. E quindi inevitabilmente la costruzione dovrà passare attraverso parole d'ordine che rimettano in campo l'idea che è la nostra classe, innanzitutto ce la deve far da sola e deve avere un programma che riprenda al centro la questione del controllo. E questa cosa deve essere abbinata a una grande pazienza e al tentativo di provare a entrare in luoghi di lavoro e anche di scuotere i propri dirigenti sindacali, di trovare un collante col movimento studentesco. Noi abbiamo indicato un po' in GKN un'avvertenza a modello, ma non è sufficiente di per sé, ovviamente. Il paese è molto più vasto della Regione Toscana, è molto di più. Però crediamo a questo punto di vista, o proviamo a smontare questo, e questa cosa può essere giocata fino in fondo se tutte le piattaforme tengono in considerazione questo. Dalla questione della difesa della legge 194, che non può più essere fatta se non viene preso in considerazione il peso che portano le lavoratrici e quindi le discriminazioni sui luoghi di lavoro alle lavoratrici, che è un tema che esce dai confini anche del dibattito ospedaliero, fino alle questioni ambientali, di produzione e più politiche. E questo per provare a rispondere a una domanda difficilissima. Grazie. Va bene, allora, augurandoci sempre che da casa si senta tutto, adesso la domanda più difficile è quella che devo rivolgere a Matteo, perché io avevo la domanda, ma lui mi ha detto no, non farmela, fammene un'altra. A questo punto io non so, io volevo chiedere a Matteo, che è un giornalista così, potremmo dire per scelta e non per professione, di parlarci un attimo di come, sul piano comunicativo, qual è stata la dinamica che ha portato presumibilmente al grande successo di Giorgia Meloni, che come tutti gli altri partiti non aveva nel suo arco molte cose da dire, se non alleanze, se non varie, perdonatemi francesismo, cagate che riguardassero la cronaca delle cose che accadevano. Però lui mi consigliava di farlo parlare di politica. A questo punto io lo provoco, vediamo se mi risponde. Se ci dà una lettura da parte della redazione di Milano in Movimento di queste elezioni. Se c'è una lettura condivisa da parte della redazione, partiamo da lì e poi lanceremo a quel punto gli interventi liberi dal microfono. Prego. Allora, prima cosa, piano con gli insulti, perché il giornalista lo ritengo un insulto, visto il livello del giornalismo italiano in questo momento. E allora, ovviamente una analisi condivisa delle elezioni non c'è, nel senso che, come sempre a sinistra, tre persone, cinque idee. Diciamo che è ovvio che ci sono delle tematiche che tutti sentiamo in modo comune. Io poi risponderò comunque anche alla questione un po' che mi hai posto sulla questione comunicativa, che ha permesso di vincere la Meloni. Però volevo dire due o tre cose che mi sono venute in mente, o due o tre suggestioni. La prima, io ho sentito molto parlare di antifascismo questa sera. Ecco, se c'è un elemento proprio palese che emerge da queste elezioni è che siamo di fronte alla fine definitiva della pregiudiziale antifascista. Nel senso che quello che per tutta, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quantomeno al crollo del muro di Berlino e all'inizio della Seconda Repubblica, è stato effettivamente una pregiudiziale qualificante. Quella tendenzialmente dell'esclusione dei fascisti o di quello che derivava dalla loro storia dai gangli del potere è crollata. Nel senso che la questione fascismo, non è più sentita dalla maggioranza degli italiani e non è neanche sentita da molte persone di sinistra. Questa è una cosa che ci può dare fastidio, può farci male, ma secondo me è un dato di realtà con cui bisogna fare i conti. Diciamo che l'antifascismo, a livello di pregiudiziali istituzionali è qualche decina d'anni che arranca, nel senso che già nel 94, quando Berlusconi sdoganò Alleanza Nazionale, che poi era l'evoluzione del movimento sociale, aveva contribuito notevolmente a dare delle picconate a quel muro antifascista. Diciamo che la vittoria della Meloni, questa pregiudiziale la fa a pezzi definitivamente. Quindi, secondo me, non entriamo in un'Italia fascista, ma entriamo in qualche modo in un'Italia afascista. E per cui il tema del fascismo è un tema che alla maggior parte dei cittadini italiani interessa poco o nulla. E diciamo che a dare, come spesso capita, un contributo determinante allo svilimento di questa tematica importante è stato tanto per cambiare la sinistra istituzionale, facendo nomi e cognomi, l'allora PDS, poi DS, attualmente PD, perché io ricordo chiaramente nel 1996 il discorso di insediamento alla presidenza della Camera di Luciano Violante, esponente di primo piano di quel partito, in cui lui, nel discorso di insediamento, parlò chiaramente delle ragioni dei ragazzi di Salò. E quindi, per l'ennesima volta, i varchi all'interno dei quali poi la destra dilaga vengono sistematicamente aperti, almeno negli ultimi 30-40 anni, da quella che si definisce, si autodefinisce, viene definita sinistra istituzionale. E ovviamente, dopo questa affermazione di Violante, i pansa di turno non vedevano l'ora, no? O la storiografia vicina all'esperienza del movimento sociale, di buttarsi in questo varco aperto. Un altro elemento importante, secondo me, è che la destra meloniana non ha buttato nel cesso la sua storia. Nel senso, il fatto che ci sia la fiamma tricolore sotto il simbolo di Fratelli d'Italia non vuol dire che sia una forza neofascista, che ci sarà la guerra in Etiopia, il sabato fascista e queste cose, però vuol dire noi veniamo da quella storia. Noi veniamo da quella storia e dicendo questa cosa si solletica una parte non indifferente del popolo italiano, per cui quella parentesi, quel ventennio, sono, se non un momento glorioso, una pagina importante. Voi ve lo immaginate il Partito Democratico con la falce e il martello sotto il suo simbolo? Cioè, questa è la dinamica. Il non aver rinnegato nulla e il riuscire a tenere insieme la propria storia col proprio presente, modificandosi. Per quanto riguarda i rischi fascismo, io, a costo di sembrare impopolare, Io non vedo nessun rischio fascismo, neofascismo, cioè io al massimo quello che vedo è un neoliberalismo autoritario, ancora più autoritario di quanto è stato autoritario finora. Tant'è vero che questo governo Meloni rischia seriamente di essere il Draghi numero due e non il governo delle camicie nere, delle squadracce e così via. Le ricette economiche, tra l'altro, che la destra propone, che sono sempre le stesse, come la flat tax, quindi il taglio delle tasse, sono le stesse ricette della Thatcher e di Reagan. Quindi la madrina e il padrino della controrivoluzione neoliberale. Il problema è che non siamo più negli anni 80 e 90, quindi sono già gli stessi mercati a mettere le mani avanti e suonare un campanello d'allarme. Perché se voi avete seguito quello che è successo nel Regno Unito, quella pessima figura di primo ministro inglese, che se fosse possibile è ancora peggiore di Boris Johnson, la Truss, proponeva un gigantesco taglio delle tasse per i ricchi. Abbiamo assistito al più gigantesco attacco speculativo contro la sterlina degli ultimi 30 anni. Quindi i margini di manovra anche da parte del capitale e della finanza sono molto ristretti. Quindi il problema è: probabilmente la destra non riuscirà a mantenere le promesse elettorali che ha fatto. E vo se vogliamo dircelo, la destra e Meloni ha vinto su tre elementi. Il primo, l'essere stata all'opposizione per anni, perché ovviamente stare all'opposizione paga sempre elettoralmente, quindi essere vissuta come coerente. Secondo, aver promesso il taglio delle tasse, che a milioni di italiani va bene, cioè la gente odia le tasse in una buona fetta e quindi è sempre un elemento vincente. E poi una politica d'ordine, cioè la destra viene votata sempre per la politica d'ordine, riportare la sicurezza nelle strade, tutta questa narrazione mitomane dell'Italia insicura. Il problema è che dal punto di vista economico loro non riusciranno, almeno nell'immediato, a portare a casa queste promesse. E quindi, come sempre la destra, dovranno trovare dei capri espiatori, degli specchietti per le allodole da incolpare, oppure per creare delle armi di distrazione di massa, no? E quindi ovviamente non è che io vedo il rischio fascismo, vedo un rischio prevaricazione contro le fasce devianti e le fasce deboli. Fasce devianti ovviamente per l'ideologia che sta dietro a quest'area politica e le fasce deboli, è inutile dirci quali sono perché sono sempre le stesse. Secondo me, però, un elemento importante che viene spesso sottovalutato, e in qualche modo mi riallaccio a una parte del discorso del compagno che ha parlato prima, che condivido, che ha parlato prima di me, è che in questa elezione, nonostante si faccia finta di niente, è tornata in primo piano la questione di classe. Nel senso che negli ultimi 40 anni il neoliberismo ci ha convinto che le classi non esistono più, la lotta di classe non esiste, non bisogna parlarne, che ovviamente è uno strumento di guerra ideologica, no? Contro, come dicevamo, Warren Buffett, la lotta di classe esiste come e la stiamo vincendo noi ricchi. E addirittura abbiamo convinto i poveri che non esistono come classe. In verità la questione di classe è emersa come? Se voi andate a vedere la ripartizione del voto, a parte Fratelli d'Italia che è abbastanza trasversale, voi vedrete che nel meridione chi aveva redditi più bassi, ha votato 5 Stelle. Il PD è votato dalla classe media, media urbana tendenzialmente, mentre Calenda e Renzi vengono votati dalla classe media, media alta, anch'essa urbana. Quindi, forse inconsciamente, però, gli elettori in qualche modo identificano le forze che fanno i loro interessi di classe. Tutto in modo sotteso, nel senso è un tema che non viene messo alla luce del sole, però questo fiume carsico della lotta tra ricchi e poveri, ricchissimi e poveri, sfruttatori e sfruttati, è un tema che secondo me nei prossimi anni, anzi nei prossimi decenni, visto il momento di crisi del nostro sistema tornerà all'ordine del giorno. E non è un caso che gli elementi divisivi di una campagna elettorale abbastanza squallida, cioè abbastanza soporifera, sono stati non a caso due temi di, in qualche modo uso un termine veramente desueto, però che spiega, sono elementi di ricomposizione di classe, e sono il reddito di cittadinanza e il salario minimo. Se voi avete notato, l'attacco al reddito di cittadinanza ha un arco di alleanza vastissimo, che va dalla destra, con diverse sfumature, alle forze padronali, ai Macron de Noantri, come li chiamo io, che sono appunto Calenda e Renzi, e al PD che balbetta, non sa bene che cosa vuole. E questo è un elemento dirimente, secondo me, come facevamo un tempo, perché ricordiamoci che il reddito di cittadinanza è stato per i movimenti sociali una bandiera già dalla prima May Day Parade del 2001. Poi qualcuno ce l'ha scippato quel tema e l'ha messo in cantiere in un modo non particolarmente entusiasmante, però lo ha fatto. E questi temi sono temi dirimenti, e noi assistiamo quotidianamente a servizi sui telegiornali che ci dicono che i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sono sempre più poveri. Scusate, dimenticavo i più feroci nemici del reddito di cittadinanza, l'intelligenza liberal di sinistra, che in tutti i salotti, dalla Sette a Vespa, sono tra i più spietati avversari. Fanno la lacrimuccia per i poveri, che per loro sono un mondo metafisico probabilmente, non sono persone in carne ed ossa, con vite, sentimenti, cazzi e così via. No, sono un mondo metafisico. Ah, i poveri, due pacchettine sulla spalla, però il reddito di cittadinanza togliamolo. Ma stavo dicendo, noi siamo in un paese che ha 80 miliardi di evasione fiscale l'anno, 4 morti sul lavoro al giorno, interi settori dove il lavoro è schiavismo, i redditi più bassi d'Europa, e il problema del paese è il reddito di cittadinanza. Questo elemento, insomma, qualche campanello nell'orecchio dovrebbe farcelo suonare, secondo me. Se volete parlo anche del PD, mi divertirei un sacco. Posso stare 5 ore a parlare del Partito Democratico, della sua eterna crisi. Ditemi se lo volete o no, o poi posso dire due sciocchezze sui movimenti. No, ti ringrazio, i film dell'orrore non ci piacciono. Lasciamo perdere il PD, dai. Se possibile, se vuoi dirci ancora qualcosa sui movimenti, poi apriamo il microfono, lanci il microfono in sala e chi lo raccoglie lo raccoglie. Via, vai Teo. Allora, per quanto riguarda i movimenti, io credo che ci sono delle tematiche che in qualche modo siamo obbligati ad affrontare, che sono dinamiche, che sono tematiche prettamente sociali, cioè che non sono le tematiche dell'antifascismo militante, della contrapposizione stradaiola con le squadracce, che è capitato di fare negli anni. Per esempio io, molti di voi lo sapranno, sono in fissa col tema del caro vita e penso che a Milano dovrebbero essere costruite più campagne sul caro vita con una presa d'azione diretta su questa tematica, perché a tutti sta capitando di ricevere le bollette doppie rispetto all'anno scorso. A me è capitato una settimana fa, 200 euro di bolletta elettrica, l'anno scorso era 101 euro e la situazione andrà a peggiorare, perché poi non apriamo la parentesi della situazione internazionale che mi strappo gli ultimi capelli che ho. Questo è un tema. Poi c'è il tema del mondo studentesco. Devo essere sincero, io mi aspettavo maggiore preoccupazione e maggiore mobilitazione nel mondo studentesco. Cioè mi aspettavo sin dal giorno successivo una serie di azioni nelle scuole. Noi dall'inizio dell'anno abbiamo assistito a un elemento molto positivo, che è la nascita o la rinascita di decine di collettivi all'interno delle scuole. I collettivi erano andati un po' disintegrandosi e perdendo energia negli ultimi anni, parliamo di diversi anni. Ecco, ci sono delle strutture organizzate all'interno delle scuole, ma non c'è una ricaduta di mobilitazioni maggioritarie nelle strade del mondo studentesco, a meno che non siano le grandi giornate di lotte chiamate da Friday for Future e non una di meno. Ecco, forse dovremmo riflettere anche su questa problematicità, nel senso, ci sono delle realtà strutturate all'interno delle scuole che rappresentano degli elementi di mobilitazione degli studenti, che probabilmente agiscono molto all'interno delle scuole, ma agiscono poco all'interno delle strade. E questo è un elemento di contraddizione, perché anche nel momento più alto delle mobilitazioni di questo inverno primavera contro l'alternanza, i cortei studenteschi non sono mai stati cortei di più di 1.000, 2.000, 3.000 persone, che per chi si ricorda la tradizione studentesca milanese non sono numeri eccezionali. E nonostante questo ci sono decine di nuovi collettivi e c'è questa apparente contraddizione, no? Tra il rinascere della rappresentatività politica all'interno delle scuole e la difficoltà a farla scendere a cascata sulle strade. Mi fermo perché poi divento lunghissimo e vi annoio. Va bene, allora noi vi ringraziamo tutti e tutte perché sono stati degli interventi veramente importanti, tutti quelli che sono stati fatti. A questo punto, secondo me, potremmo prenderci almeno un quarto d'ora, 20 minuti, serenamente, se vogliamo continuare il discorso su qualche punto, su tutti i punti o su altre cose. E poi ci saranno musica e balli e danze per tutta la notte. Per cui, prego, assolutamente libera partecipazione. Voilà! Io mi sento di condividere il relativo ottimismo dei due che hanno parlato per ultimi. E inserendomi in questo filone vorrei però fare un'osservazione che mi sembra non sia stata fatta, che a me pare di qualche momento. Cioè, la Meloni, la destra, durante questa campagna elettorale ha sbandierato a più riprese una sua conformità alle indicazioni economiche dei grandi poteri, l'Alleanza Atlantica, l'America, compagnia e quant'altro. Ecco, io credo che la Meloni, soprattutto sugli aspetti economici, sia sincera nel suo appoggio alla linea Draghi, perché la sua politica, in sostanza, cioè, io credo che gli ultimi la repressione di classe, hanno capito benissimo che la fa il mercato, che la fa questa situazione, non è la loro politica con mezzi diversi, e questo secondo me sta a significare che non avranno contraccolpi sul piano economico eccetera, e che quindi le loro radici fasciste le eserciteranno in modo particolare sui diritti civili, sulla Costituzione, compagnia cantando. Ma sul piano economico li troveremo allineati perché la loro politica, non perché fanno uno sforzo per adeguarci. E in questo senso il fascismo non è più quello di una volta. Credo addirittura che sia peggiorato, perché gli strumenti dell'economia di mercato sono alquanto più feroci di quelli che usarono i fascisti prima. Quindi questo elemento, secondo me, dovrebbe far parte del discorso e forse portare anche un contributo all'ottimismo, per dire con una sola parola, che ho sentito e che mi convince. Grazie. Posso dire due cose? Allora, io diciamo che sono d'accordo con l'intervento del compagno Emanuele, dicevi. Su una cosa vorrei un approfondimento, cioè sul fatto che non c'è stata una sconfitta. Io penso che una sconfitta ci sia stata, una radicale dall'89 a oggi, di lungo periodo, l'altra accentuata, iniziata negli anni 80, preparata con la controrivoluzione neoliberista, e poi dopo la sconfitta dei social forum, dopo la sconfitta del movimento No Global. E ci troviamo in una situazione che da 150 anni in qua, forse 200, con la nascita del movimento cartista, dove negli equilibri mondiali e italiani non esiste il movimento operaio organizzato. Non è un attore significativo, ci sono lotte importanti, quella, ma come è stato evidenziato, non producono diciamo un'unificazione delle lotte, una spinta che pesi. Poi basta guardare anche i numeri, se uno va a vedersi ha tempo da perdere, ma io penso che sia tempo significativo, i dati OCSE sulla situazione del lavoro mondiale, dal 90 ad oggi, caduta in picchiata della sindacalizzazione. E questo cosa vuol dire? Caduta in picchiata delle ore di sciopero, caduta in picchiata della protezione del mondo del lavoro. Potrei andare avanti, spostamento della ricchezza ai profitti, alle rendite e diciamo impoverimento del lavoro salariato. Solo queste quattro variabili sono variabili che dal punto di vista materialistico, perché va fatta l'analisi materialistica, non nel senso di materialismo filosofico, ma come lo intendeva Lenin, di materialismo militante. E questo vuol dire che c'è una grande novità. E in più, se facciamo l'analisi, che qui non è stata fatta, dell'astensionismo, chi coinvolge l'astensionismo? Coinvolge i molti, non i pochi ricchi. E insomma, la Meloni, poi io sono convinto, che difenda una parte del capitale, perché la lotta di classe è tra il capitale globalizzato e il capitale nazionale sovranista, insolvente e in difficoltà nel reggere questo confronto. Un capitale che viene fagocitato dal capitale globalizzato mondiale all'interno di una dinamica degli ultimi 10-15 anni di centralizzazione estrema del capitale, dove il 2% degli azionisti controlla l'80% del capitale mondiale. Allora, la Meloni, materialisticamente e schematizzando, anzi scheletrizzando, si rifà a questo capitale in sofferenza, e l'endorsement venuto dalla Confindustria non è casuale, perché in Italia la gran parte è fatta da nanoimprese, la gran parte dell'economia. Quindi questo è un elemento strutturale che va tenuto presente, e io sono convinto che da questo punto di vista il blocco sociale al quale fa riferimento la Meloni è un blocco sociale che si è consolidato negli ultimi anni. Quindi il rischio di un fascismo c'è. Certo che non sarà un fascismo con il fez, l'orbace e l'olio di ricino. Non lo possiamo sapere adesso e non possiamo sapere quando si scatenerà, ma un passo decisivo in avanti è stato fatto. Dobbiamo prenderne atto, con tutte le conseguenze, no? Che militanti comunisti o anarchici, eccetera, eccetera, devono prendere per questo. Io preferisco e penso che sia un approccio più realistico essere pessimisti piuttosto che essere ottimisti, parlare di post-fascismo, perché non c'è post-fascismo qui, perché si parlava di post-fascismo anche per il movimento sociale all'epoca, poi abbiamo visto che cos'è stato. E anche sulla questione dell'antifascismo va fatta una netta distinzione tra quello che è l'antifascismo di classe e l'antifascismo cosiddetto liberale, intermittente, parolaio, no? Quando in TV oggi vediamo la caricatura dell'antifascismo storico, come quando vediamo il fascistometro fatto dalla Michela Murgia e ci dimentichiamo il fascistometro fatto da Adorno, massimo esponente della scuola di Francoforte, che era una cosa seria, nella personalità autoritaria aveva dato 30 variabili per individuare il fascismo, poi scoppiazzato anche da Umberto Eco. Ecco, dobbiamo sapere che l'antifascismo diventa una priorità e la discussione va aperta qui nel quartiere, sulle mobilitazioni da fare e sulla vigilanza a quello che avviene a livello nazionale, europeo, e quello che avviene qui sul territorio anche nostro, locale. Ciao, Io mi chiamo Riccardo, per chi non mi conosce sono un tecnico informatico all'azienda dei trasporti di Milano. Dico un paio di cose. Ha detto bene Matteo che è la fine della pregiudiziale antifascista. Su questo però io lancio una provocazione in più. L'antifascismo non porta voti. Cioè, voglio dire, e mi riaggancio all'ultima cosa che ho sentito, noi sappiamo benissimo che ci sono tanti tipi di antifascismo, che ci sono in particolare, c'è un antifascismo che è quello popolare, un antifascismo che è quello liberale, l'ha chiamato lui, però noi il potere non ce l'abbiamo, cioè il potere ce l'hanno altri. Il potere dice altre cose e l'antifascismo, così come è stato presentato dal 1994 in poi, è stato esattamente la chiave di tutte le campagne elettorali della sinistra moderata, chiamiamola così, dei liberisti. Dell'antifascismo, perdonatemi, lo dico con dolore, alla gente non gliene frega più un cazzo. Perché la gente, cioè io ci lavoro in un reparto operaio, scusate. Cioè, alla gente in questo momento è preoccupata della guerra, dell'ipotesi della guerra nucleare, delle bollette, ok? Dei problemi del lavoro, perché ha figli un po' più grandi, cominciano a dire mio figlio non so cosa farà, e mortale, perché c'è gente della mia età, dalla mia età in su, anche delle pensioni, che non vengono mai citate, ma che sono la vera mannaia che ha decapitato il centrosinistra, perché quella gente il centrosinistra non lo voterà mai più, perché sono quelli che gli hanno alzato l'età pensionabile fino ai 70 anni. Allora, io sono ovviamente sono antifascista, se non sarei qui stasera. Mi chiedo se possiamo ancora impostare un discorso di dialogo con le persone del quartiere, del mondo in cui viviamo, sulla base dell'antifascismo, o se non dobbiamo cominciare a chiederci se non dobbiamo praticare delle cose, delle proposte che sono antifasciste nei fatti, ma perché se noi andiamo lì e facciamo un discorso di contrapposizione ai fascisti, questi non capiscono. Non capiscono perché facciamo lo stesso discorso che fa il PD, perdonatemi, però il PD lo fa con una cassa di risonanza molto più ampia. Noi questa cosa dobbiamo smetterla di nascondercela, nel senso che noi riteniamo di essere i veri antifascisti, ma questa cosa la riteniamo solo noi, cioè dobbiamo prenderne atto prima o poi, nel senso che la gente là fuori e là intorno non la sa, scusate. Ma scusate, se non c'è nessuno, rispondo brevemente alla questione appena posta su diciamo il piano in cui l'antifascismo non è più un qualcosa di interesse comune. O perlomeno io credo che nelle varie discussioni che sono state fatte, ma anche poi parlando con le persone di questo territorio e non solo, in realtà la mera contrapposizione tra fascismo e antifascismo è chiaro che per molti non è più tangibile, non è più visibile. Poi noi, in quanto comunità, non solo noi, anche degli interventi fatti fino ad ora, riconosciamo e sappiamo riconoscere dove un'impostazione fascista vive, comanda, governa e norma le vite nostre e degli altri. Però è chiaro che è un ragionamento, diciamo, di secondo livello, cioè un ragionamento in cui riconosciamo e diamo un nome in quanto fascista a un atteggiamento, a una prevaricazione, a un modello di governo, un modello di vita nelle nostre vite private e non solo. Per cui io sono d'accordo, cioè personalmente sono anche d'accordo con Riccardo nella misura in cui la mera contrapposizione non può essere l'unico tema che, ad esempio, nelle battaglie di quartiere o comunque nella presenza di una comunità nel quartiere normano e costruiscono il nostro agire quotidiano. Ma quello che Guglielmo diceva nell'introduzione, cioè anche l'elaborazione che abbiamo costruito con i compagni di Roma, insomma con tutta la rete nazionale di Aurora, e che diventa, noi crediamo, abbastanza necessario in questo momento in cui molte delle, diciamo, delle delle narrazioni fatte su come sono andate le elezioni, sulla lettura di fase, io trovo, trovo molto corretto, ma appunto poi nella ricaduta quotidiana, ad esempio della nostra comunità, di quello che noi facciamo nel nostro territorio, hanno e devono avere un'attrattiva, una contaminazione, e per noi che cerchiamo questo riferimento, cioè l'antifascismo sociale, sono la sommatoria esatta di quello che tu hai anticipato, cioè il riuscire a comprendere come costruire vertenze, vita, come modificare, come governare in una qualche forma la comunità, con un'identità, adesso passatemi il termine, con una forte impostazione antifascista, ma all'interno di un contesto sociale che è molto più complesso e che non può essere descritto solo con la contrapposizione ai fascismi. Perché i fascismi esistono, ci sono spesso non solo rispetto agli squadristi organizzati che, per quanto riguarda poi la nostra presenza territoriale, ma non solo, esistono ancora, ma diciamo che non sono la presenza e soprattutto non governano poi la città, le nostre vite e molti di questi aspetti. Ci sarà una variazione con questo nuovo governo, sicuramente lo spostamento a destra sarà molto più radicale rispetto a quelli degli anni precedenti, probabilmente se durerà più del dovuto, sicuramente ci sarà un supporto all'ultradestra organizzata, questo sì, probabilmente sarà così, quindi comunque le comunità devono farsi resistenti, nella misura in cui è probabile che ci saranno forze organizzate che compromettono poi la vita all'interno delle comunità, ma questo discorso su un discorso molto più ampio, e quindi l'unione delle forze, la comunità, il comunitarismo, e riuscire ad avere voce in capitolo all'interno dei nostri luoghi, è sicuramente necessario trovare, modificare e parlare un linguaggio differente, praticare delle vertenze, delle opposizioni dal punto di vista territoriale, su scala globale, l'unione del sindacalismo di base, l'entrata nel mondo del posto del lavoro. Tutte queste cose sono corrette e noi in una qualche forma le ascriviamo a questa possibilità di agire antifascismo sociale all'interno di qualunque contesto. Noi come luogo non siamo un luogo che supporta e costruisce quella che è pratica vertenziale all'interno degli spazi diciamo legati alle istituzioni, però è chiaro che se le persone a noi vicine della nostra comunità praticano antifascismo sociale all'interno delle istituzioni, sicuramente è un qualcosa che va verso una direzione più positiva rispetto all'attualizzazione di quello che è e di quello che accade. Per cui insomma era per cercare di rispondere, per cercare di dire che è desueto la contrapposizione classica antifascismo-fascismo, ma non lo è nella praticità e soprattutto non lo è nella misura in cui dobbiamo trovare e cercare e praticare l'attualizzazione del concetto di antifascismo sociale, perché questo per noi è un po' ciò che ogni persona può fare all'interno della propria vita e all'interno della comunità, anche e soprattutto per contrastare le future piogge che ci saranno. Da Roma forse volete, Ale, volete dire qualcosa voi? Mi sentite? Alessandra? No, forse non vogliono dire niente. Se dovete dire qualcosa, tocca a voi. Ah, scusa, ok. Allora facciamo. Vai. Dovete intervenire? Ale? Alessandra? Ah, ok, bueno, ok. Scusaci, abbiamo sbagliato. C'è Fausto e poi forse dobbiamo cercare di fare una sintesi per chiudere. Spero di concludere la serata facendovi dormire definitivamente, mi sembravate molto sonnambuli. Sì, in effetti, quando si va in giro per la gente a parlare di antifascismo, mi aspetto che in tutto questo periodo di ricevere la risposta: beh, lasciamoli lavorare. Penso che nel 98% delle persone, anche quelli che non li hanno votati, ci risponderebbero così. E noi abbiamo un problema nell'agitare il nostro antifascismo, che quello che abbiamo agitato dal 1945 ad oggi è stato un antifascismo parolaio. Tutto quello che abbiamo scritto nella Costituzione, nella realtà, si è trasformato in tutt'altra cosa. Coloro che hanno gestito tutta l'Italia hanno avuto come comune denominatore l'anticomunismo, non l'antifascismo. L'antifascismo l'abbiamo solo scritto l'anno. Noi non abbiamo proprio scritto niente, ce lo siamo ritrovato scritto e ci siamo cullati nel fatto di averlo trovato scritto. Di fatto, nella pratica, quello che è andato avanti è stato l'anticomunismo, che ha messo insieme i soliti che ritroviamo, che sono la Democrazia Cristiana, la mafia, gli Stati Uniti e la NATO e il Vaticano. Tutti questi soggetti hanno un minimo comune denominatore che si chiama anticomunismo, che è quello che è stato praticato nella pratica da 80 anni a questa parte. Ora, siccome questa pratica che va sotto questo termine di antifascismo, oggi risuscitarla, ridargli corpo, ripartire da quello che sta scritto per costruire questa cosa, la vedo difficilissima. E poiché i nostri nemici hanno questo minimo comune denominatore, mi chiedo e vi chiedo se non sia più proficuo sottolineare in tutte le nostre lotte sociali, politiche che conduciamo nella pratica, l'essere contro gli anticomunisti, ovvero dichiarare di essere comunisti. Perché questa, secondo me, è la svolta. Noi siamo comunisti e siamo contro gli anticomunisti che hanno governato e dominato fino ad oggi in tutto e per tutto, nella pratica, non nella forma, magari no. Perché la forma c'è stata qualche possibilità. Addirittura per 80 anni un partito che si chiamava comunista ha fatto di tutto per farsi accettare ed è arrivato a cambiare persino il proprio nome, aveva già cambiato tutte le sue parole d'ordine, tutte, no? Ma è arrivato a cambiare persino il proprio nome per farsi accettare. Nonostante ciò, questo ha avuto come conseguenza il fatto che la gente, se doveva votare un partito che faceva delle scelte anticomuniste, ha finito per votare quelli che di anticomunisti sono sempre stati, inevitabilmente. Questa è stata la pratica corrente. Ora, l'essere per noi anticomunisti, cioè contro gli anticomunisti, significa probabilmente cercare di dare un corpo diverso a questa nostra lotta, a questa cosa, che non ho ben presente, perché mi sfugge, anche perché dentro questa cosa qui noi abbiamo un'ambiguità, che se ci limitiamo a questo, finiamo per essere identificati con, ultimamente, con Putin, un pochettino prima con Stalin. E guarda caso, né l'uno né l'altro c'entrano niente col comunismo. Allora noi, in questa battaglia contro gli anticomunisti, dobbiamo riuscire a chiarire a chiare lettere a tutti che siamo contro Putin e contro Stalin e contro tutti quelli che hanno affossato il comunismo. Siamo una minoranza, ma non abbiamo la possibilità, ma questa, tutti coloro che hanno combattuto questa battaglia prima, tra poco tempo andranno a sbattere, perché stanno distruggendo il mondo, stanno distruggendo tutta la realtà che si sta intorno, hanno distrutto anche la nostra solidarietà tra di noi, tra le masse, tra la gente. La gente è stata individualizzata, ognuno di noi è stato individualizzato. Io non so bene come questa battaglia sarà da portare avanti, però penso che questi argomenti, se riusciamo ad approfondirli, a farli marciare, a dar loro sangue e carne, possano essere quelli che ci prima o poi ci fanno fare dei passi in avanti. Solo se posso, rapidissimamente, mi limito a fare una considerazione per rispondere a lui. Nel nostro paese l'antifascismo è diventato un fenomeno di massa solo dopo che processi sociali hanno reso altre cose fenomeni di massa, sindacalizzazione di massa, partiti operai di massa. Allora dopo anche l'antifascismo è diventato di massa, dopo la resistenza ovviamente, quindi dopo un processo politico quasi semi-insurrezionale. Mi sento però di dire una cosa politica. Oggi l'antifascismo è una questione di attivisti e sarà così ancora per un po'. E sarà così soprattutto per le generazioni più giovani, in parte anche per il recupero di quelle più vecchie. Però non disperiamo, ricordiamoci, nel 2001 l'intera generazione politica dopo Genova è stata spazzata via, andata a casa. E quella generazione lì dibatteva di globalizzazione, manco si utilizzava il termine capitalismo, non si utilizzava. La maggior parte delle persone guardavano le mobilitazioni che avrebbero portato a Genova dicendo: ma cosa vuole questa gente? L'economia cresceva, la disoccupazione non era alta. Le briciole ancora cadevano dal tavolo. Ci sono voluti 20 anni. Hanno utilizzato le leve monetarie, c'è stata la crisi economica. Ma oggi provate ad andare in un mercato e chiedete alla gente se si può andare avanti così. E ti diranno: non si può andare avanti così. È una risposta confusa. Non è una risposta chiara. Però è una risposta che punta dritto al cuore del fatto che questo sistema un futuro non te lo dà, che tu sia pensionato o studente. E questo, di riflesso, proprio per riprendere anche la riflessione che facevano i compagni di Aurora, di riflesso alla fine avrà una ricaduta anche sull'antifascismo, che da terreno esclusivo degli attivisti a un certo punto potrebbe prendere un corpo più largo, per un banale motivo: il PD ha governato questo paese per anni in tutti i governi di unità nazionale possibili, poi ci sono stati i governi tecnici e hanno provato anche i governi tecnici, poi il governo dei migliori e hanno provato anche il governo dei migliori, e adesso mandiamo su l'estrema destra. E quando vedranno il fallimento politico dell'estrema destra, che sarà palese e sarà chiaro, perché la crisi economica è oggettiva, oggettiva ed è indipendente dalle volontà, dalla singola personalità della Meloni, allora diranno anche: allora basta con i fascisti. Lo diranno in maniera confusa, in principio. E lì però vale il gioco dell'ostetrica. Se saremo stati in grado, capaci di far partorire una serie di parole d'ordine, sarà più facile che il terreno antifascista da sociale diventi anche perfino politico. Se avete mai letto un romanzo che è Q di Wu Ming, dove si parla dell'Ecclesiaste, libro dell'Antico Testamento, il Qelet, si dice: c'è un tempo per tutte le cose, tempo di seminare e tempo di raccogliere. Seminiamo, perché socialmente potremo avere la possibilità di raccogliere. Scusate, io non sono dell'ambiente, non sono neanche della zona, è la prima volta che vengo. Trovo interessantissimo tutto quanto è stato detto e ero rimasta un po' sconcertata però dalla tua introduzione, dove si parlava di antifascismo, e poi ho sentito molto parlare di antifascismo, e da quanto ho capito mi pare che si debbano distinguere vari contenuti del termine antifascismo. Perché c'è un antifascismo, diciamo, di radice storica, completamente superato. A Marzabotto, 1800 erotti assassinati dalle forze d'occupazione tedesche, hanno votato tranquillamente la Meloni, quando erano i fascisti che gli portavano i tedeschi in casa, nei villaggi italiani. Dopo 80 anni è difficile che la gente si ricordi o faccia caso a quel che è successo nella storia. Quindi l'antifascismo, diciamo, classico è ormai appannaggio di pochi, di studiosi, di storici, di gente che mantiene il ricordo, come fa giustamente Lampi, di persone che insistono sull'antifascismo per contrastare l'attuale politica europea che dei valori su cui è nata, cioè dalla resistenza di 17, 18, 20 paesi contro l'occupazione, contro i valori, i disvalori portati avanti dal nazismo, hanno combattuto non tutti insieme, ma tutti con un'unica idea: abolire il fascismo e introdurre un mondo di maggiore giustizia sociale. Se leggete le lettere degli condannati a morte della resistenza europea, è il leitmotiv che viene perfettamente al caso ed emerge con chiarezza. Questo, diciamo, è un antifascismo. Ma che cosa è di fatto il fascismo? Il fascismo è il ricco che schiaccia il povero, il maschio che schiaccia la donna, il bianco che schiaccia il nero, l'Herrenvolk che schiaccia gli Untermenschen. È il predominio di una parte sulla maggioranza, su altri comunque. In questo senso il fascismo si è espresso ultimamente nel liberismo economico spinto al massimo della sua potenza e arrivato forse, lo discutono gli economisti, ad una crisi che non è ciclica ma è strutturale, perché si sono trovate a convergere la crisi finanziaria, la crisi economica, la crisi climatica, la crisi sanitaria, tutto un cumulo di crisi che convergono verso una situazione estremamente difficile. Francamente non vorrei essere la signora Meloni io in questo momento. Comunque il potere va sempre bene, uno dice, però il potere poi bisogna gestirlo, e bisogna gestirlo in maniera da non finire sulla ghigliottina, come dal 1789 ci hanno insegnato, anzi dal 1640, ai tempi che gli inglesi sono stati i primi. In questo senso c'è un antifascismo che si può esplicare, si esplica in ogni momento storico, in ogni momento della vita quotidiana. Quindi è antifascista essere qui noi oggi, è antifascista fare manifestazioni degli studenti per la strada, è antifascista il rogo delle bollette che hanno fatto una settimana fa in Corso Buenos Aires. È tutto un movimento che spinge verso una giustizia sociale che, come diceva giustamente il compagno che mi ha preceduto, una volta chiamavamo comunismo, ma non era quello dell'Unione Sovietica, anche se la storia dell'Unione Sovietica bisogna conoscerla, perché con 14 eserciti che ti invadono il territorio forse devi pensare a cose più urgenti e pressanti. Con 3,5 milioni di nazisti che ti invadono dopo qualche anno di nuovo il territorio, forse Stalin qualche ragione ce l'aveva, diciamolo, insomma, e ha vinto la guerra perché gli alleati angloamericani hanno deciso lo sbarco in Normandia quando hanno avuto paura che i sovietici gli arrivassero non a Berlino ma addirittura a Parigi. Per cui bisognerebbe conoscere, analizzare bene la storia. Comunque comunismo è diventata una parolaccia, non la si pronuncia, si dice cazzo, ma comunismo no, anche alla televisione. Per cui Invece il senso del comunismo qual era? La maggiore giustizia sociale. E per questo bisogna lottare sempre, comunque in tutte le forme, che sia la lotta contro i residuati folclorici di Casa Pound o dei gruppetti che avvelenano le nostre città e le nostre strade, che sia da parte dei lavoratori. Lì si è esplicato soprattutto il fascismo, perché non so se voi sapete o ricordate che una delle primissime misure di Mussolini appena salito al potere è stata la riduzione del 10% dei salari operai. Dunque, mio marito, che era più anziano di me, era figlio di una famiglia operaia di Porta Garibaldi, abitava in Corso Como, suo padre lavorava alla Fratelli Branca di Viale Stelvio, e fu una tragedia questa riduzione del 10%, perché la mamma non poté più comprare il burro. Quota 90. Ora, il fascismo è questo, soprattutto, l'imposizione del dominio sul mondo del lavoro, con tutti gli annessi e connessi di cui dobbiamo essere coscienti. Poi mi interessava il discorso che faceva sempre lui, come ti chiami non me lo ricordo, evviva Guglielmo, che parlava di rendere cosciente la gente. Allora, il problema della coscienza di classe è un problema dibattuto, 1924, Lukács, storia e coscienza di classe, no? Va bene, mi approvi. Ecco, la discussione si è protratta per lunghi decenni, e sarebbe interessante magari dedicare una riflessione su questo. Poi, scusate, salto di palo in frasca, ma ormai sono lanciata, mi piacerebbe far notare che nessuno parla, tutti parlano degli immigrati, nessuno parla del fatto che in 20 anni 5 milioni di italiani sono andati all'estero, e prima ci andavano i giovani, adesso ci vanno anche i quarantenni e i cinquantenni. Io ho vissuto 30 anni all'estero, vivo tuttora metà in Italia e in buona parte all'estero, frequento le comunità italiane che stanno fuori d'Italia, e devo dire che sono tutti scappati per disperazione, sarebbero felicissimi di poter vivere in Italia, ma ormai l'Italia all'estero è data come moribonda, non c'è più niente da fare se non rifarsi al principio speranza e al principio molto più utile della lotta. No, ma posso? Sarò velocissima. Allora, volevo riagganciarmi a quanto appena detto Nunzia rispetto all'idea di dominio o di predominio e alle considerazioni sul tempo che abbiamo per cambiare le cose. Allora, può magari sembrare non pertinente nella discussione di questa serata, ma io temo che ormai sia pertinente in qualsiasi discussione, che però non è stato nominato da nessuno, e che è la crisi climatica. La crisi climatica è il risultato di secoli di dominio capitalista. È iniziata molto tempo fa e continua adesso, e sta raggiungendo, anzi ha ormai raggiunto dei livelli tali per cui probabilmente sarà difficile tornare indietro, e non credo che rimanga tanto tempo per cambiare le cose prima che gli effetti della crisi climatica si facciano sentire in tutta la loro tragicità. Il dominio capitalista si esercita in ogni dove, in ogni parte del mondo, su le classi più svantaggiate, sui poveri, sui paesi più poveri e sulle classi più povere di ogni paese. Ci saranno migrazioni di massa dovute ai cambiamenti climatici. Probabilmente arriverà il momento in cui il capitalismo non sarà più praticabile, ma temo che coinciderà più con un disastro totale che non con una presa di coscienza, vedendo come stanno andando adesso le cose. Quindi io penso che noi ci troveremo a vivere qui in Italia delle grosse difficoltà con il governo della Meloni, perché comunque qualcosa faranno, fosse solo per tenersi diciamo legate le persone che li hanno votati. Quindi verrà messa in discussione la 194, che già di per sé è messa in discussione da tutti i problemi di obiezione di coscienza, verranno messi in discussione i diritti civili delle persone LGBTQ, verrà ancora più ci sarà ancora più divario tra i ricchi e i poveri, ma tutto questo avverrà comunque in un panorama mondiale assolutamente tragico. Tra l'altro si stanno già manifestando degli effetti sia vabbè, a livello ambientale sicuramente, che però pare che interessino davvero ancora molta poca gente, e poi già le prime guerre. E tra l'altro si sta cominciando a paventare anche la possibilità dell'utilizzo di armi atomiche. Quindi io mi chiedo davvero, ma non sarebbe meglio cominciare a rivedere e a rileggere tutto quanto sulla base di quello che sta accadendo dal punto di vista della crisi climatica, che sarà qualcosa veramente di devastante? A me pare che ancora questo argomento non venga affrontato con la giusta serietà. Sì, io ho chiesto di dire due cose perché volevamo. Allora, siccome è la terza volta che tento di dirla, in modo sì, di dire due cose, perché l'iniziativa di stasera, secondo noi, nella nostra testa, poteva avere una possibilità di mettere in moto ulteriormente altre cose. Allora, detta così, abbiamo parlato della crisi del capitalismo, dell'imperialismo, degli imperialismi. Analisi estremamente profonde, interessanti, utili, perché ci danno ulteriore linfa nella critica. Siamo tutti coscienti che questo passaggio governativo prenderà una strada di costruzione dei processi di riaccumulazione conseguente a, per forza, delle fazioni del capitale all'interno del paese, e avremo di fronte questa questione legata alla questione dei diritti, no? In generale, che non sono solo gli attacchi ai diritti civili, perché da questo punto di vista qui avremo questioni che legate all'economia portano direttamente, ci veniva ricordato da lui, insomma, direttamente la possibilità del conflitto nel cuore operaio, da questo punto di vista. Ora noi non intendiamo fare un passo indietro in rapporto a quanto, no, abbiamo fatto finora sul piano organizzativo, sul piano dell'aggregazione e sul piano della possibilità di riadeguare anche la nostra capacità di stare nel quartiere in dialettica con le cose che avvengono sul piano nazionale e di rimettere in piedi, no, di essere coerentemente, diciamo, conseguenti nella battaglia dovremo affrontare. Ci siamo misurati, sappiamo quali sono i nostri valori e anche quali sono le nostre pratiche, abbiamo identificato, ci siamo omogenizzati a un livello adeguato in rapporto a quei valori che noi diciamo, qualcuno parlava prima, i valori del comunismo che sono l'eguaglianza. Noi oggi proponiamo, come Rosso gli spera, vogliamo proporre a voi di ZAM e a quanti ci stanno, ho chiamato i compagni di Albratosoglio di cui hanno un'esperienza diretta con noi, a rifare l'esperienza, a rifare l'esperienza della chiamata raccolta di tutti i comitati nella zona con all'ordine del giorno una riflessione accurata su come può arrivare e cosa sta arrivando, no, in rapporto alla vivibilità nel quartiere, in rapporto alla solidarietà fra proletari. Ecco, quindi noi vi facciamo una proposta di identificare, lo decideremo poi se voi la raccogliete, di identificare una data in cui sarà possibile fare questa roba qui, raccogliendo questo tipo di proposta su questo percorso, perché almeno la finiamo questa assemblea, questo dibattito, con qualcosa di concreto. No, due cose veloci, perché ho sentito un sacco di cose interessanti, ampiamente condivisibili. Io invece volevo mettere un po' insieme la mia confusione, perché sono più confuso di prima. Allora, un paio di cose fondamentali, almeno sul voto. Una cosa sulla crisi climatica. Benissimo, cominciamo adesso, andiamo avanti all'infinito, perché è chiaro che bisogna parlarne. Io personalmente penso che la crisi climatica farà tutto quello che noi non abbiamo saputo fare in termini rivoluzionari, ossia sarà quella che uccide il sistema capitalistico, perché forzatamente questo si uccide da solo grazie a questo. Ha creato questo tipo di mondo e non può governarlo. E quindi farà quello che noi abbiamo tentato di fare per molti anni senza riuscirci. Perché in realtà, a parte la crisi climatica, il sistema per me ha fatto, non lo so, che vale il discorso sulle elezioni, anche se volete, anche partendo da lontano. Il sistema, il neoliberalismo, il sistema, ha fatto una cosa fondamentale, ha fatto l'invenzione del ceto medio. Questa è la cosa più importante che ha fatto in tutto questo arco, in questi 20, 30, 40, 50 anni. Cioè, demolendo completamente un discorso di classe, ha eliminato, almeno, forse no, però nella mente di tutti, la classe operaia, e eliminando le classi ha tagliato gli estremi, no? Per cui ci sono i ricchissimi che naturalmente sono, oltre che invidiati, odiati da tutti, i poveri dall'altra parte, che però sono totalmente dimenticati, e ha creato questa immensa fascia di ceto medio a cui tendenzialmente apparteniamo tutti. Che è una cosa assolutamente, è una trappola incredibile, perché ovviamente il ceto medio va da a me, che sono ormai pensionato, ma povero disgraziato impiegato pubblico, all'avvocato che guadagna 10 o 20 volte quello che guadagno io, ma siamo tutti ceto medio. E quando sentiamo, non so, di dibattiti televisivi, si parla sempre in nome di questo personaggio che sembra i sordi della commedia italiana, che è quello lì che rappresenta l'italiano medio. Non esiste l'italiano medio, però una volta che tu hai tolto questa appartenenza, hai creato questa roba qua, è chiaro che tu hai creato un elettorato, anche comunque un popolo, diciamo così, estremamente fluido. Totalmente fluido, che a un certo punto, siccome il ceto medio poi non è così è drammaticamente stratificato, al primo stormir di fronda di crisi economica una parte grossa del ceto medio va in crisi, continua a chiamarsi ceto medio, non ha coscienza di classe, non va in piazza, ma va in crisi, e naturalmente si appiglia a questo, a quello, a quell'altro, cambia voto, becca quell'altro, becca quello che era l'opposizione, sperando che forse quando sarà il governo farà meglio tutto quanto. E questo, io credo vagamente, può spiegare questo, questa mutazione degli ultimi 20 anni di voto in maniera abissale. Una volta si cambiava dell'1% e c'era gente che lì si stava a disquisire. Adesso ci sono dei passaggi in 4 anni, Meloni dal 4% al 26%, e sembra quasi normale, e ce lo aspettavamo pure. Quindi io volevo puntualizzare su questa cosa qua del ceto medio, che è una grossa invenzione, trappola, che noi ci siamo portati avanti e abbiamo aderito. Abbiamo aderito perché poi nell'essere classe c'è anche un orgoglio di classe che è stato dimenticato, e anche questo conta molto. E quando tu perdi questa connotazione, allora entrano degli altri modelli identitari. E la destra su questo c'è molto di più. Il discorso del simbolo, i simboli, è stato citato prima, la falce e martello è sparita, la fiamma tricolore è rimasta da 70 anni a questa parte. Ed è un simbolo forte. Loro si sono messi lì nascosti nelle fogne, sono stati lì per tanti anni e hanno mantenuto i loro simboli. Metterci insieme poi l'esoterismo, l'Oriente, i folletti magici, la letteratura di Tolkien, quello che volete, a torto ragione, ma ne hanno fatto una grande forza, mentre noi i simboli li abbiamo persi. Questo è estremamente importante. Allora viene fuori una cosa identitaria che tu ti riconosci lì. E adesso noi abbiamo quella simbologia lì, abbiamo ancora l'ottimo assessore alla sicurezza Romano La Russa che va a fare il saluto romano. Queste sono cose importanti per dire che comunque queste cose allineano ancora, sono lì e stanno lì ancora. E adesso faccio l'ultima cosa sull'antifascismo. Non lo so come, so benissimo che è stato detto prima, antifascismo, ma non c'è mai stato. Cioè qua in Italia l'antifascismo è stato di facciata, però attenzione, a televisione una volta all'anno, Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema, ci piangiamo i morti, i bambini, oddio che roba terribile. Attenzione, con una piccola cosa storica, che c'erano sempre le perfide SS, mai i fascisti, ma neanche le Wehrmacht che sono state salvate, sempre le perfide SS. Quindi quando abbiamo tolto le perfide SS, gli altri, grosso modo, ma sì, poi passa il tempo e ce ne dimentichiamo. E no che non ci dimentichiamo, perché c'erano le SS, c'era la Wehrmacht, c'era la RSI, c'erano i fascisti lì, insieme. Quindi il problema di cos'è adesso l'antifascismo, ho capito e lo so, è drammatico che tu parli alla gente e la gente dice vabbè, ma sono cose odie, però stiamoci molto attenti, perché è stato giustamente detto, l'antifascismo è una parola che dovrebbe avere ancora un significato, almeno per noi dovrebbe averlo. Siamo passati all'afascismo, benissimo, adesso siamo afascisti, siamo tutti afascisti, però stiamo attenti che tramutandoci a fascisti, senza dimenticandoci di essere ogni giorno antifascisti, poi togliere la privativa è facile, ci si mette un attimo, si toglie anche la della fascismo e rimane quella roba là. Mi spiace, ma purtroppo devo concludere, perché altrimenti non andiamo più avanti. Noi 8 anni fa, il 4 di ottobre, non l'8, oggi siamo all'8, ma al 6, ma se non mi ricordo più nemmeno, 6, abbiamo occupato questo luogo, perché ci avevamo sgomberato un'altra parte, in realtà eravamo in centro, un'altra storia. E in realtà io la butto lì, perché fare una sintesi di quello che è stato detto stasera è impossibile, penso. Raccogliamo assolutamente l'invito che viene da Rosso Si Spera di creare un momento per parlare con tutti i soggetti di questo quartiere riguardo a cosa fare adesso, perché forse è il caso, tra bollette, Meloni e altri vari problemi. Secondo me effettivamente bisognerebbe riprovare a parlare di comunismo, ma lo sono io, lo dico, il collettivo di Zam, su questa è un'idea più complessa, mettiamola così. E basta, vi ringraziamo tutti e tutte di aver partecipato, è stato un bellissimo scambio. Abbiamo capito che quando poi si aprono un po' i microfoni, iniziano a dire le cose, non si finisce più bene, lo rifaremo magari alle 2 del pomeriggio, non alle 9 di sera, che è più comodo per tutti e per tutte. Stasera adesso c'è della musica, qualcuno forse mette i dischi, forse qualcuno, non lui, qualcun altro. E domani c'è la presentazione di un libro, sono l'assemblea degli studenti, delle studentesse, c'è ancora della musica, la scena legale, perché ahimè quando si prova a combattere contro il sistema le multe arrivano, le sanzioni arrivano, le condanne arrivano, per cui se volete domani sera mangiamo qualcosa assieme e contribuiamo a pagarci le condanne. Che dire? Grazie mille davvero a tutti e tutte, grazie a chi ci ha seguito da casa e che ha partecipato, buona serata, ci rivedremo, è una minaccia sicuramente.